Quella che vi stiamo per raccontare è una storia vera, successa neanche tanto tempo fa. È una storia di Roma, perciò del mondo. Se ci avete orecchie troppo delicate, ve ne potete pure annare. Ma se decidete di sentire, allora non ve ne indignate, perché questa è la vita di un ragazzo di malavita. Dai, Molisano, stiamo aspettando a te. Piatto piagne. Dai, punta. Dove stavi, Molisano? Servito? Sì, accesso che ha la chitarra. Accesso che servito. Capellino, quante carte? Due. Eccole. Vabbè, dai, Molisà. Fammi guardare. Almeno mettici un altro quarto d'ora. A barista, un'altra bottiglia che questa è vuota. Io sto bene così, ragazzi. Io pure, sì, tutti. Tu sei stato un sembra fatto per finta, sto gioco. Io sto a posto. Dice che questo è l'ultimo, che c'è troppa roba segnata. Ragazzi, ma che cazzo stai? Io non c'entro niente. Se c'è problemi, parla con Renato. Oh, Renato, ma che è sta storia, oh? Oh, io ci sono cresciuto qua dentro, oh. Certo che qua le mie cose giravano dalle parti mie come invece mettevi tutto in conto, Pure più del dovuto, io te lo lasciavo te mancia più del dovuto. A me mi fa incazzavo. Ah, no, dico, ammetti. Anche ammetti, la sera mi avrebbe voglia di più ammattone, ti dico, dai da bere, no, pom! La mattonata in faccia, la mattonata a fanculo, no, ma te che è pure servito. Ma me la vado, ma non lo so. Aspetta un attimo che mi ho cambiato idea in un attimo. A San Pognari. Famoso e po' un fiore. Che fiore vuoi? Che ne so, un fior de limone. Fassi il mio, ora. Fior de limone. Ma chi sarà sto giovane per bene? È un popolano oppure un gran signore? Non vedi come sei caruccia? Ma dimmi un po', ma te mi pari così pura, così innocente, senza malizia, così... Ma tu non puoi essere di Roma. Io mi desposerei, è che non c'ho una lira. Non c'ho una lira perché non c'ho voglia di lavorare. A San Pognano, stornello per sta amica, va. Voglia? Voglia di lavorare. Sarta m'addosso. Lavora, padre mio, che io non posso. Io non posso lavorare perché io soffio di quella donna che prima di Eva andiede con Adamo, senza però commettere il peccato originale. Quindi mi ha salvato dall'obbligo di dover lavorare col sudore e nell'eventualità anche di dover partorire con il dolore. Massa quanti siete, oh. Sono passati 6 anni, Però mi pare che non è cambiato niente. L'inverno fa freddo, l'estate fa caldo. Al bar dello Zingaro c'è sta sempre sta musica di San Pognari che mi sfonda i timpani. Solo Renatina è cambiato, che non mi vo più da bere. Sono nato il 25 di dicembre. No, però nel presepe mio non ci sta né re magi. 6 anni. 6 anni dentro una gabbia. Quando stai dentro una gabbia il tempo non ti passa mai. Allora tu stai lì che conti le ore. E più non ti passano, e più le conti. E più non ti passano, e più conti i minuti. E più non te passa e più te si ruba quello che c'hai di più prezioso, che è l'incoscienza. Sì, io aspetto. Mi chiamo Natale, Natalino del Tersorcio, perché come i sorci vivono le fogne tra i rifiuti, son balordo, vagabondo, socialmente pericoloso, son l'amico da perde, er fratello da dimenticasse, er padre da non avesse mai, so de Roma, però non si sente tanto. Ogni tanto bazzica la stazione, dice perché ci vai? Perché ogni tanto mi sento solo. Oh, io già da ragazzino, c'ho tanti di quei reati e vacanze forzate a bottega che Nell'ambiente ero rispettato, dici che facevo? Noi svuotavamo i negozi, entravamo nelle case, se facevamo i furgoni, quella sì che era una vita che pagava. Era una vita che pagava, le scarpe con lo scrocchio, i meglio night club, i meglio ristoranti, i meglio vestiti, i meglio scaglie dei night club. Quando che sono cresciuto io, erano l'anni 70, e Roma era una Roma difficile, una Roma pericolosa, una Roma povera, erano l'anni di piombo, l'anni della Roma disperata, povera, l'anni degli omicidi illustri, l'anni delle bande rivoluzionate armate, quelle nere e quelle rosse. L'anni che i politici si sono conosciuti coi delinquenti, si sono trovati simpatici e si sono frequentati. E la periferia è il cuore di sta vita. Io sono del Borghetto Prenestino e gli amici qua sono del Borgata Gordiani. Bella Natale! Bella, Una borgata tutta ruderi, polveri, pezzi di maioliche, cessi abbandonati, siringhe per terra, immondizia dappertutto. Ma ragazzi, e dai! E non pisciava mezza strada. I ragazzini pisciavano mezza strada e quindi rimanevano i disegni fatti coi ghirigori del piscio secco. E noi ci divertivamo a inventarci delle figure. Oh! Io ci vedo un cavallo! Ma che sa di manovri che è una flascia quella? Che sarà di tutte e due quella sera? Ma che una serie? Ah, ma non litigate! A gente lo fa con le nuvole sto gioco e noi lo famo? Corpiscio! C'era una pipinara, i ragazzini che i capelli arruffati, le guance scavate, i maglioni bucati, fammi a prendere subito le sigarette e torna subito se no te gonfio! Poi ci stavano i ragazzini... Oh, e dai però! Oh, ma sto a parlare con voi, mi parete i Led Zeppelin de Borgata Gordiani! I ragazzini, quando che gli scappava, si mettevano in mezzo alla strada, si accovasciavano, si abbassavano i pantaloni mentre ciancicavano le gomme, com'è che si chiamavano? No, erano quelle adesso io. No, ma che erano? Vabbè, in ogni caso si mettevano là, ammollavano, s'alzavano, si tiravano su tutte e se ne andavano. E lasciavano tutto là. Ammazza Dio! E poi ci stavano i coatti, quelli veri, quelli che noi chiamavamo i capelloni del par dello zingaro. Quelli erano capaci di piatte, di buttarte per terra, di gonfiarte le botte, di spaccarte la mano, di spegnere una sigaretta sopra le guance, ma poi, come se niente fosse, di ritornare giù box, di mettere su un pezzo di Gianni Nazzaro e tornasse a pomiciar con le pischelle e disse te amo forever. Scusate un attimo. Quando scappa, sono due gocce, Nei pomeriggi borgatari, poi, tra i disperati, i depravati, gli ubriaconi, i poracci, capace pure che facevi brutti incontri. Quirino. Quirino era famoso. Quirino era famoso perché stava con le coppiette, se guardava le coppiette e se adescava i ragazzini. Una volta, mentre stava a pisciare dietro una discarica, non me lo trovo davanti con un giornaletto zozzo, la bava la bocca, il bozzo ai pantaloni, mi fa o leggiamo insieme. Io sono rimasto di pietra, volevo scomparire. E invece più veloce del pensiero sono tornato da amichetti mia, Hoffman e Graziano, gli ho raccontato il fatto. Hoffman, ma non lo sai, ho incontrato Quirino di qua e di là. Hoffman, che era il più malandrino di noi, pian bastone fa, gli dovevamo dare una lezione. Hoffman lo conosceva bene, Quirino, eppure Attila, il Doberman suo, che manco l'aveva sentito nominare, che aveva cominciato a abbaiare. E poi c'era Graziano, che con qua la faccia piena di brufoli, che doveva fare? Era d'accordo. A Quirino gli piacevano i ragazzini? Bisognava punirlo. E quindi è scattata la trappola. Torno indietro, gli faccio... Aguirì, ma che ne dici se vedemo... tra una mezz'ora la baracchetta da stazione? Tu portate solo il bicchiere. E al vino ci pensiamo noi. Non si è fatto ripetere due volte, quel porco l'aveva preso per un giochetto sozzo, dopo mezz'ora puntuale stava la baracchetta abbandonata, noi eravamo chiusi bene dentro, allora lui arriva, fa per entrare, spinge la porta, ma noi eravamo chiusi dentro e faceva apritemi, no, Quirino, metti il bicchiere nel buco che te damo da beve. Un bicchiere, Due bicchieri, tre bicchieri, stava già mezzo ubriaco, se stava eccitato. Aprite, faceva, rimette la mano nel buco come per aprire la porta. Allora è scattata la trappola. Hoffman tira fuori un pezzo di quelli dei fili di rame, quelli dei trasformatori ad alto voltaggio che se rubavamo per arzadolire alla stazione. Gli lega le mani a una trave, scavarchiamo dalla finestra e te lo gonfiamo de botte. Hoffman lo piaccarci a sputi, a pugni, a cassotti. Quel polaccio se divincolava, urlava, guaiva, pareva un maiale armacello. Eppure Attila, era cane suo, pare che se lo voleva mangiare a mozzichi. Graziano gli fa un rutto in faccia, una capocciata in testa, allora pure io me faccio coraggio, vado là, gli do lo schiaffone. Aia. L'amo lasciato là. Col naso rotto, tutto tumefatto che grondava di sangue, mi ricordo solo la voce di Hoffman che faceva: strilla, strilla, che tanto non te sente nessuno, Aquirino! E il giorno dopo l'hanno trovato morto tra i cessi abbandonati, le maioliche, le siringhe, i pezzi. E a me mi sono venuti a dar buongiorno le guardie. C'avevo una paura. No, mica delle guardie, di mio padre, così incazzato, chi l'ha mai vista? Oh? Pareva un ferro da stiro bollente quando che c'è sputi sopra, l'hanno tenuto un due. Io gli ho detto la mia, ma non hanno creduto a una sola di tutte le stronzate che gli ho intortato, ma hanno interrogato a cazzotti e a carci. E mi hanno buttato al minorile, c'avevo 14 anni. Chi? Hoffman e Graziano, sì. E quelli erano maggiorenni, diretti a bottega. Ah, come sa, ma perché mi fate tutte queste domande? Chiamami Franco. Commissario Franco, perché mi fate tutte queste domande? Sì, sì, sì, io lo voglio il caffè. Il caffè, sì, lo prendo. Thank you. fica, il pugilato e Little Tony. Solo di ste tre cose parlava mio padre, eh. Ah sì, no, ogni tanto ci metteva pure la Roma, com'era Crick? Ciccio, Cordova! Amarildo, Derso, ogni tiro, and go! Se no solamente la figa, il pugilato e l'Inter Tonio. Io una volta ci ho pure provato a far pugile, sono durato una settimana. Poi me ne sono andato per tre motivi. Primo, i cazzotti fanno male. Secondo, perché mia madre non voleva che piava i cazzotti e manco che gli davo, però. E poi terzo, perché non mandava di far niente che faceva contento mio padre. Ma hai deluso! Ma motto ho deluso perché non voglio piare i cazzotti in faccia! Non vedi questo? Ogni tanto mia madre mi mandava a chiamarlo che era pronto il pranzo. Ogni volta che era pronto il pranzo mio padre non c'era mai, stava sempre dentro a qualche bar embriaco, con amici a parlare. Allora io dovevo andare a chiamare, ma mica era facile riportarlo a casa. Quindi mi dovevo sorbire tutti i discorsi su l'incantesimi della fica, la magia del pugilato e la gioia d'ascoltare Little Tony. Più o meno andava così. Immaginate io ragazzino che vado da mio padre e gli faccio: ah papà, dice mamma che è pronto. Che cazzo stai a dì? Che è meglio Cuore Matto cantata da Mario Zerinotti? No, ti sto dicendo solamente che Little Tony è un pupazzo che fa la scimmia ad Elvis. Lo sai che ti dico? Che tra 30 anni tu mi sentirai ancora parlare di Little Tony e mi chiederai chi cazzo è Mario Zerinotti. Chi cazzo è Mario Zerinotti? Mi diceva così io. Tutto famo sentire noi. Chi cazzo è Mario Zerinotti? Quando un ragazzo si trova nel guai, ma non si deve ridere mai. Un giorno o l'altro potresti anche trovarti così. Oggi piango, ma domani potrei ridere di voi. Ma ti vuole non riderò, perché so questa è l'immagine più viva che ho di mio padre. Anzi, no. L'immagine più viva che ho di mio padre è di lui che scopa con le operaie dello scatolificio di fronte a casa. Ogni tanto lo beccavo pure dentro all'8:50, infrattato in qualche pratone. Allora io lo seguivo, zitto. E mi mettevo accanto a lui. Una volta si gira e mi vede, guarda, dopodiché c'ha la bava alla bocca per lo sforzo e la fronte piena di sudore, si gira e continua a pompare. Ma io sono rimasto là, zitto, come se non esistevo. Ma che c'è pensare che mia madre sapeva tutto e se era andata? Manca a chiusa la porta per non svegliare me, mio padre ci ha lasciato un cazzo di biglietto sul tavolo che se n'è andata con lo zingaro. Con lo zingaro dalla tribù dei Cora Canese faceva passare per in Sant'Antonio e invece era un balordo. Era un balordo come stiamo Lisano, con sta cazzo di chitarra ci muori dentro sta borgata. A balordo! Abitava dentro una roulotte dietro a una discarica, c'aveva i baffi a manubrio, si chiamava Misar, coi capelli corcodino, una piuma dentro, un cappellaccio sopra. Insomma, dalla bocca sua usciva sempre una saggezza del cazzo. dice che ha studiato, dice che era maestro, dice insomma che era pieno di donne, c'ha un harem di donne. Capirai, perché una non basta. Vabbè, insomma, in ogni caso era lui, una volta ho pure beccato, stava sulla porta a parlare con mia madre. Allora, mi guarda e mi fa, vieni Natalino, dobbiamo parlare. Ma questo che cazzo vuole? Insomma, mi ha raccontato una storia. Mi ha raccontato di lui che si era conosciuto con mia madre prima che io ero nato, mi raccontava, si vedeva che ha studiato, che parlava, raccontava bene, parlava, e dopo un po' rompeva il cazzo. Natalino, ti annoio? No, vai avanti, mi diverto un sacco. Vedi Natalino, la passione è la cosa più importante che ce l'abbiamo nell'anima. Che vuoi, che devo fare? Non c'è una vergine che si rinnovi dietro lo stesso velo. E che ne so, tu hai capito? Dopodiché fa una pausa, mi guarda e mi fa, anzi, una c'è, e mi dà una carezza. Ma che era pure froce, guarda, vieni qua! Anzi, ambivalente, come si dice. Oh, in ogni caso quello là si è fregato a mia madre, quindi tanto frocio non doveva essere. Ma comunque, sti grandissimi cazzi. Io mo c'ho da fa però, mo li sa. Andiamo, va, andate. Ciao, mo li sa. Un po' di giorni mio padre viene da me e mi fa, a Natalì ho scoperto dove sta tua madre. Un amico suo gli ha passato una busta di quelle di carta del pane con qualcosa dentro. Lui si è allontanato e è finito su tutti i giornali. Sì, mi siedo. No, capirai, io figure, ci stavo bene solo. Mi pareva solo un po' strano che doveva apparecchiare per uno. E una pacchia, commissario Franco. Il bagno era sempre libero, certe pisciate. Hai capito, commissario? Franco. $12.50, press for time. Allora c'era una volta che ho assistito a uno stupro. Dalle parti mie si organizzavano le ammucchiate con le perse della stazione. Le perse della stazione erano ste ricassette che dal nord Italia venivano a Roma, perché capirai, Roma, la capitale, l'anni 70, la contestazione, chissà che se credevano di trovasse, non se l'aspettavano di trovare tutta sta baraccopoli, e proprio dentro una baracca del genere che la stavano a portare quei capelloni del bar dello Zingaro. L'avevano fatta bere, l'avevano fatta fumare, un paro di pasticche e poi via, ciù, in fila indiana, uno dopo l'altro, come te l'hanno conciata quella voraccia, l'hanno spezzata e buttata per terra. E io stavo là, oh. Stavo là che stavo a vedere tutto, dietro a Montarazzo dei Cosci con un amichetto mio, e volevo intervenire, e volevo urlare, gli volevo dire, oh, ma no, vedete che è una ragazza, volevo tirargli i serci, volevo chiamare le guardie, volevo correre, volevo strillare, volevo talmente tante cose, volevo fare. Che non ho fatto un cazzo. E così gli sono risultato simpatico. Gli so Io ho guadagnato la loro fiducia e sono entrato a far parte della batteria del bar dello Zingaro. Andiamo a... Specializzata in furti, chiusure e scavalchi. Ad ogni bar c'era una batteria. Quando che non sconfinavi e non rompevi il cazzo all'altri, campavi tranquillo. Anzi, campavi de più. Un sorriso. Musica. La batteria del bar dello Zingaro dice: che facevamo? E noi organizzavamo i conti tra i clans, i pesciaroles, i testacines, i marsigliesis, quelli della Meglianas, con rispetto parlando, e pure gli altri. E poi gli strappi, gli scippi, le rapine in banca, puttane, ricottari, ciocchi, giri di droga, i pacchi! E poi i sequestri. Oh, amore, se tu mi dai 2,5 milioni, al brigadiere ci penso io e Giacolombo te lo tolgo dalle spese. Quant'è che c'hai? 250.000 lire vanno bene uguale. Poi le banche, gli scaratti, le sparatorie, i rapimenti e gli svezzamenti! Quella sì che era vita da vive, vita da non morire mai. Il più zozzone del gruppo si chiamava Manolo. C'aveva una Kawasaki Z1-900 tutta cromata, cilindro e pistoni neri e serbatoio giallo e arancione metallizzata. Andava tutto il giorno in giro per quartiere con sta moto che scureggiava a destra e a sinistra. Con certe fighe in minigonna, certe fighe in minigonna, certe fighe. Oh, a Molisa di un po' com'erano. C'aveva pure, giocava a biardo da Dio, c'aveva pure il pezzo e lo tirava fuori pure 3 volte al giorno. Ma io dico, vai a dire una cosa a uno del genere. Io volevo essere come lui, io volevo essere lui, io volevo tutto il sangue suo dentro le vene mie. Tant'è che sono diventato il meglio amico suo. Ah! Oh, sincera Manolo, io dovevo aspettare 18 anni per andare a vedere il primo film porno. Io, sincera Manolo, ci capivo niente dei motori. Sincera Manolo, io non ci capivo niente della differenza tra una semiautomatica oppure un revolver. E invece adesso lo so che se c'è qualcuno che c'è il pezzo e c'è il polliciotto qua sopra, scurito, occhio che vuol dire che qua la pistola è carica. Io, sincera Manolo, sicuro. Hai fatto la galera. Vabbè, ma che c'entra, oh? Ma quello è un dettaglio. Ma han parato a sparare. Ma Molisa, ma che ne sai te? Oh? Ma come che ne sai io? Ma hai mai sparato? Ma vattene. Testa, ma sei bello te sei, e va, oh. Quello a me mi ha imparato a sparare. E che maestro? Li vedi tutti sti piselletti? Queste sono le cartucce. Mo tu chiamale come cazzo te pare. Tic tac al piombo, confetti, munizioni. L'importante è che me ne infiliotto qua dentro. E adesso stringila. E stringila forte come quando che ti stai a impugnare il pacco che stai per ficcare. Allinea i piedi e allunga il braccio. Inclina la testa, l'occhio destro sulla tacca di mira. Trattieni il respiro. E resta immobile. Non ero io immobile, il cielo si era fermato, il tempo, il vento non spirava più, il cuore mio non batteva più, quel barattolo infame, fermo, immobile, davanti a me, mo sparo e lo pio, mo sparo e lo pio, mo sparo! Spara. Un attimo. Pum! Liscio. Vabbè, era pure la prima volta. Ma no, era la prima volta, dai! Gli scavarchi li facevamo soprattutto d'estate. Queste belle estati roventi. Che te squagliano l'anima. Ma che ti fanno sentire il padrone della città, perché parlavosi chiaro. A Roma d'estate non c'è stato nessuno, Voglio dire, se stai a Roma d'estate o sei... sei uno sfigato o sei un poraccio baraccato. Ma sei un prete. Perché i preti? Ma quelli ci stanno sempre, il pisciano tocca, ma che ne so che fanno. Oppure sei un professionista dello scavarco. A Ferragosto poi potevamo annar Colosseo e buttarlo giù a picconate. Ammazza, che non ci avrebbe rotto il cazzo nessuno. E ci potevamo costruire sopra una enorme grattachecca. Alla Marena. Da un po' di tempo a sta parte cominciava a lavorare con noi un certo Donato. Donato, il sartarupe, il grillo, la cavalletta e la gazzella. Oh, fai scavarchi con lui, era un giochetto da ragazzi. Lui era il numero uno di scavarchi, era, ce faceva da testa ad ariete. Praticamente lui c'ha una tecnica tutta sua, appena che vedeva una grondaia di quelle dell'acqua all'angolo dei palazzi era più forte, da lui ci s'abbraccicava e di lì si arrampicava al primo balcone, dal primo al secondo, dal secondo al terzo, fino a raggiungere il balcone che avevamo stabilito. E da lì ci lanciava una corda, no? A Donato, tira la corda! E zitti che ci sentono, ma chi ci sente che è Ferragosto? Donato la scimmia, la gazzella, la cavalletta e il grillo. Una volta non m'è cascato dal terzo piano. No, non è morto purtroppo, perché è rimasto zoppo per tutta la vita. Ma io dico, ma ciò vedi uno che fa i scavarchi che è zoppo? Ma non funziona. Dai, Donato, scappa che te manda via! Non funziona, non funziona. È come uno che ti chiede l'elemosina all'angolo dei palazzi che c'ha tutte e due le gambe. Non glieli dai i soldi. Però noi no. Noi gli volevamo bene a Donato, quindi Donato il grillo, a cavalletta, a scimmia, a gazzella. Abbiamo continuato a lavorare con lui. E quella volta ci siamo fatti una trattoria dal carbonaro. Abbiamo lasciato il motore acceso, carsa sulla faccia, via, diretti alle casse, una botta col culo dalla pistola, un giro di manovella e... E il cassettino delle casse, quando che è pieno dei sordi che s'apre, è una sinfonia. Via i sordi, infilali in saccoccia e via. E chi ci poteva riconoscere che la carsa in faccia, i vestiti anonimi, nessuno di noi aveva parlato, nessuno poteva essere riconosciuto, nessuno! Arrivo. Nessuno tranne Donato, il sartarupe, il grillo, la cavalletta, la scimmia, la gazzella, per via di quel pasto cionco che si ritrovava. Pare che Oreste, l'oste, dice che era andato dai guardie e ha detto che aveva visto uno che zoppicava, capirai, quelli hanno fatto 2+2, il giorno dopo stavano da Donato, il sartarupe, il grillo, la scimmia, la cavalletta, e gli hanno detto, oh, che devo fare? Paio di cazzotti in faccia, via, dentro una gabbia in attesa del giudizio. Vabbè, però noi stavamo tranquilli, perché Donato è un amico, Donato non parla, noi stavamo a botte di ferro, Donato è un fratello, Donato è come se fosse muto, Donato non parla, Donato non parla. Donato non parla. Donato non parla. No, bisogna fare qualcosa. E allora, e andiamo! E quindi torniamo dal carbonaro, però stavolta come clienti. Oh, N'hanno fatto a tempo a metter culo sulla sedia, fiumi di rosso dolevano! E poi la pasta, i rigatoni, i gnocchi, le pappardelle al sugo delle lepre, e poi la lepre al sugo delle pappardelle, le fettuccine, i funghi porcini che ci sguisciavano, dai piatti che non facevamo a tempo a finirle che arrivava Oreste, lo spione, che ce li ricaricava, con gli spaghetti alla carbonara belli pepati con la pancetta scrocchiarella. Bravo Oreste, fai i complimenti a tua moglie. E poi eravamo sempre felici quando che stavamo con le zampe sotto al tavolo, felici di quel buon umore che c'hai quando c'è il bicchiere sempre mezzo pieno. Oreste, versa, completamente pieno. Voglio fare un brindisi e voglio brindare la faccia di chi ci può male e delle guardie. E poi... la carne! La coda, la trippa, l'osso, la lingua, l'osso buco, la pagliata, il maialino arrosto, che le patate scrocchiarelle, l'agnello, la scotta dito, il cugno, la cacciatore, Oreste, una macedonia per sciacquettarci la bocca e un caffè per gli amici e una bella sambuchina per me che sta vita è già troppo amara. S'era fatta una certa. Praticamente erano due ore che stavamo là dentro, al locale non c'era più nessuno. Allora ci si avvicina Oreste, l'oste, e ci fa: volete un amaro? Che sperava che gli chiedevamo il conto, capito? Perché se eravamo magnati sto mondo e quest'altro. Allora arriva Manolo, tira fuori il pezzo e gli fa: lo vedi? L'amaro te lo damo noi adesso. Io tutto eccitato corro e vado a abbassare la saracinesca. Frum! Dice che sei stato chiamato dalle guardie, che devi testimoniare contro un amichetto nostro, che dici che hai riconosciuto come uno che ti ha svaligiato il locale. Vedi, lui non può essere stato, è vero, regà, perché qua sera stava con noi. E per essere sicuro che ha capito bene, gli ha dato una gomitata in fascia e un cazzotto in panza. Aveva capito bene. Vedi, caro Oreste, se tu parli, sarta in aria il locale con tutto quello che c'è dentro. Ed è un peccato, perché tua moglie i rigatoni alla matriciana li fa proprio buoni. Au, io non lo so perché, ma il giorno dopo donate il sartarupa a gazzella, a scimmia, a cavalletta e il grillo, fu rilasciato. Pare che Oreste, l'oste, ha ritrattato, ha detto che aveva visto, sì, quattro persone che gli avevano rubato dentro al locale, ma che scappavano e zompavano tutte, su due gambe forti, gioiose e sane. Bravo Oreste, bravo. Regà, la cortesia, mi lasciate solo 5 minuti? Allora, una volta mentre stavo dentro un bar, a un certo punto te vedo una ragazza, ammappala come era bella, ma non era bella come quando una è bella, era bella diversa, era innocente sembrava, io c'avevo più pelo sullo stomaco di un orso e lei era piena di innocenza. Stava a telefono con uno, un pezzo di merda che non la faceva parlare, a un certo punto lei fa pronto, pronto, pronto, riattacca e attacca a piagne. Allora tira fuori un gettone, fa per infilarlo, ma gli casca per terra, io come un gatto lo raccolgo, mi tuffo. E lei mi fa un sorriso. Un sorriso. Com'è? Come quando che non te va di sorride. Però a me mi sembrava il sorriso più bello del mondo. Ma che stai a piagne? La domanda più cogliona che gli potevo fare. No, no. Sto bene. Già mi diceva le bucie. Chiunque è quel pezzo di merda che te fa piagne, io gli spacco la faccia e gli rompo i denti. Io mi chiamo Natalino, detto il sorso. Io mi chiamo Natalino. E tu? Pasquetta. aveva fatto la battuta e a me mi aveva fatto ridere. Si chiamava Cecilia. Ah, Cici, ti offro la colazione, te va, te falla. Ah, oh, non ho fatto tempo a finire sta frase che si è girata e è scappata via dal bar. Io ho interpretato che non c'era tanta fame. Oh, come me lo ricordo quel giorno. E chi se lo scorda? Anche perché dopo sono arrivati i compari miei che sono da mo' fa un furgone che doveva scoppiare dei sordi. Siamo entrati dentro, ci stavano 250.000 lire la colletta di spiccioli dell'ascensore di via Teulada 10. Una sfiga. Totale della giornata, eh? Una sfiga. E Cecilia? Il tempo passava e io mi sentivo sempre più invincibile. Allora un giorno, mentre stavo a raccogliere le scommesse al policlinico, mi si avvicina una ragazza e mi fa: ciao, non ti ricordi di me? Ammappala com'era bella. Allora di sicuro non me l'ero scopata, se no una figa del genere me la sarei ricordata. Ma che te devo dare dei sordi? Ma no, scemo, non ti ricordi? Al bar Euclide, io piangevo, tu mi hai offerto la colazione. Ma come no, tu sei Cecilia! Beh, tu mi hai offerto la colazione, se vuoi la potevo fare adesso. Io non potevo proprio, io c'avevo un appuntamento col meglio scommettitore delle capannelle, quello si sarebbe incazzato, non potevo, non c'ho niente da fare, certo. Cecilia poteva essere l'amore vero. Io lo so perché non ci ho mai avuto il coraggio di dire che ero un balordo. E poi, se lei stava con me, io mi sentivo al sicuro. Ma sì, perché vuol dire che lassù a qualcuno gli dovevo stare simpatico e mi proteggeva. E poi lei era bellissima. E c'era un'altra cosa speciale tra di noi. Lei non me la dava. Perché lei era una cosa pura. Un giorno stavamo a fan colpo, andò male perché una guardia infame si era messa a sparare, beccato uno di noi, l'ha lasciato per terra col sangue. Pia l'ho caricato sulle spalle, dentro al furgone. Stavamo in un mare di guai, scappa. Potevamo lasciarlo là, ma se poi non moriva e parlava eravamo finiti. Allora avevamo pensato pure di lasciarlo davanti a un pronto soccorso, ma se sai come fanno là, te tengono in vita, te fanno le domande, poi quando che stai nell'estasi prima della morte vuoi far pace con Dio e chiacchieri sicuro. Allora niente, però se ci moriva a mano stavamo in mezzo a una strada. Allora Cecilia, a un certo punto mi viene in mente Cecilia, ma sì, lei studiava per diventare medico, ci poteva aiutare. Allora la raggiungo, la faccio montare sul furgone, appena monta fa una faccia. Faccia. Come quando nei fumetti l'uomo ragno sta a volare nei grattacieli e si accorge che ha finita la ragnatela. Era un balurdo. E mo lei lo sapeva, però ci ha aiutato lo stesso, ci ha portato per fortuna da un amico suo, un chirurgo, che non ci poteva dire di no per via di quel patto che fanno i medici. Soprattutto per via del fatto che abbiamo dato tutti i soldi che ci avevamo quando che c'è l'etica, no? Cecilia poteva essere l'amore giusto. Però era capitata nella vita sbagliata. Andata lì, mollali a questi, lasciali, e io vengo a vivere con te, te lo giuro. Non l'ho più vista. Non c'ho voglia di lavorare. l'aria ancora così fresca che mi pizzica il sorriso, che viene in mente l'occhio di un sorriso, ma già proprio non ti vedo più. Chissà dove sarai, chissà che vita fai, magari un altro fumo di me. Che me ne frega a me. Mi piace guardare la gente come si affanna a fare spese, tanto poi a fine mese non pagherà. Certo è strano che con questo sole mi sia ritornata in mente, forse era meglio temporale. Chissà chi c'è lì con te, se mi parli mai di me, ma ora non mi importa più. Ma vorrei che fosse così, per non ripensarti più. Che si è perso sopra i tetti lassù, vorrei fosse così, io sto in piedi anche senza te, ma invece io ti cerco come un gatto che si è perso sopra i tetti lassù. Cioè praticamente adesso succede che la storia va avanti in questo modo, che Natalino si trova nella situazione di, cioè con Cecilia praticamente, no, aspetta, lo sai che fate, vuoi vedere che è meglio io mi non mi raccontare sta cosa, ogni volta mi sbaglio, boh. Stavamo a 2000, era roba buona, roba di prima qualità. E quando che te spari in corpo la metadrina e mischiata ad altre zozzerie, non ci stai più che la testa, stai dentro un'altra dimensione. Stai nella quinta, nella sesta, nella settima dimensione. Tutto quello che ti capita è in dettaglio. Sia che c'è da ride e sia che c'è da morire. Eravamo Manolo, io, e poi c'è stava Crick. Avo... A Crick gli piace vestirsi bene quando a fare la fine. Una volta si era messo vestito nudo con una redingotta nera con sotto i garzoni che ha la bandiera americana cucita. Anna! E poi c'è stava Molisano. Oh. Molisano, occhio che spaccia e si spenne tutto in puttana, eh? È vero, Molisano? Avvalo! E poi c'è stava Capellino. Capellino, guardatelo, sta sempre sconvolta, oh. Si trattava di una cosetta facile, una filiale del Monte dei Paschi di Siena in fonda a Nomentana. Facile, c'era un vigilante armato, ma non c'erano telecamere. Allora Manolo fa... Cric, Molisano, dal vigilante, si se muove, sparategli, è il primo che si muove, sparategli. Asorcio, vieni con me, alle casse, alle casse. E chi l'aveva mai visti tutti quei soldi? Ma quant'erano? 100, 200 milioni, 300 milioni, 400 milioni, un'orgia, un delirio, un orgasmo di banconote che io con due mani mettevo dentro al sacco, tutto dentro al sacco, tutto dentro al sacco del Babbo Natalino del Tesorcio! Con tutti sti soldi me ce voglio comprare le puttane. Due ne voglio! E poi? Voglio la camicia aperta sul petto e voglio un paio di pantaloni stretti. Asarto, fammeli stretti che me se deve vedere sto bozzo, perché è Dio che l'ha scolpito. E poi voglio una sigaretta, un whisky e un tiro di coca. Una sigaretta, un whisky e un tiro di coca. Una sigaretta e basta con sto whisky. Renatino, una bottiglia di Moët Chandon per gli amici e anche... un'altra puttana per me, che ste due già m'hanno rotto il cazzo. Ah, vedi come sei carina. E fai i tocchi. Ah, quello è il pacco, m'ho ricordato bene. Perché stanotte la luna la venga a cercare tra le cosce tue. Spara, spara sorcio, scappa sorcio, ma che stai a Dio? A Molisano! Spara sorcio, scappa sorcio, cric, non sta Manolo. Spara sorcio, scappa sorcio, spara, Manolo, Manolo, a Manolo. Oh, avete visto? A Manolo, a Manolo, Manolo, alzate che morivano le guardie, zitti! Non lo vedete che sto per terra, Manolo, alzate che morivano le guardie, sbrigate, Manolo. Avevano sperato a Manolo. E io che credevo che era invincibile. A Manolo, dai, a Manolo, che dicevi che questa era vita da vivere, vita da non morire mai. Manolo, mo che ci sta da mangiare per tutti. Oh, questo stava a morire. A me mi veniva da piagne. A un certo punto mi chiama, mi fa, Asorcio, mo sei te il capo. Ma io non lo so far, capo. A Manolo, una domanda. Visto che non ti serve più, no? Ma lasci a Kawasaki. Oh, a forza di parlare con Manolo, sono arrivate le guardie. Afra, lo so, il primo giorno a Regina Celi è un trauma. C'era da poco stata la riforma dei carceri, quindi comandavamo noi, comandavano i carcerati. Stavamo tutto il giorno in cortile, giocavamo a pallone, se facevamo le canne, spacciavamo. Lo devi sapere, nei cortili si spaccia. E poi facevamo anche, organizzavamo le rapine. Oh, da un po' di tempo a sta parte si cominciavano a vedere pure i primi stranieri, quelli di colore. Noi li mettevamo sotto sempre, perché ai tempi miei i stranieri non erano persone, erano nemici. No, no, io no. Oh, oh. Io ho pure fatto amicizia con lo zingaro. All'inizio mi stava sul cazzo perché mi ricordava quello che mi si era rubato a mia madre. Però poi, invece ho fatto... Oh, c'era pure lui... sul polso il tatuaggio di un'aquila, come Misar. Allora ho pensato, magari si conoscono. Io ho chiesto, dice no, manco erano dalla stessa tribù. Ammazza Misar, oh. Quando che raccontava quelle storie, pareva che l'aquila volava. Vedi Natalino, tu sei nato in estate e sei una persona calda e avvolgente. Oh, Miser. Chissà che fine ha fatto, Miser. Magari mo becco in qualche angolo di strada che sta a leggere le carte ai passanti. Oh, se sapesse che pure io mi sono imparato a scrivere, che mi sono imparato a raccontare storie, a leggere. Ammazza quante lettere che io ho scritto a Cecilia, oh. Ma avesse risposto a una, oh. No, a me mi fregava niente, io ormai scrivevo, continuavo. Oh, mo che sapevo scrivere, scrivevo. Eh no, dai, fra sta roba no. Questo non te lo dico. Oh, ma è roba personale, scusa, eh. Mi vergogno. Mi vergogno più che d'essere stato un ladro incarcerato, sì. Sì, sì. Alla fine me la so pure portare a letto. Con l'inganno. Ah sì sì. Se tu dormi con me stanotte, io cambio vita. Te lo giuro. Sì. E stamattina? Ah, è il primo giorno a Regina Celi. Allora, io del primo giorno a Regina Celi mi ricordo la notte. Ma hanno misurato l'altezza e il peso, le impronte digitali, ero io. Ero un fio della mignotta. Tant'è che mi hanno messo dentro una gabbia insieme a altri 5 figli della mignotta come me. Appena che sono entrato mi sono fermati tutti, una fotografia, un flash. Due stavano a giocare a carte seduti al tavolo. Uno stava a fumare sdraiato su una branda. Stava a fare il tutto sudato, ma quello che mi convinceva di meno era quello che stava dietro di me, che se stava a leggere il giornaletto sosso mi guardava. Guarda che dentro al piatto mio non c'è intigni. Appena che sono entrato mi hanno assalito, cercavano le sigarette. Poi finalmente si sono resi conto che non c'avevo il tappeto addosso e mi hanno chiesto: oh, ma te perché stai qua dentro? Bravi, chiarimosi subito, io sono innocente. Ma che? Non ce lo sai? Ma certo che sei innocente, ma qui siamo tutti innocenti. Ste gabbie l'hanno costruite per noi che non c'entrava un cazzo. Io per esempio l'altra volta stavo da fuoco alla macchina e dentro c'è stava uno, ma non me ne sei accorto, io ho dato fuoco pure a lui, ma sono innocente. Io invece stavo facendomi l'appartamento di un poliziotto e visto che c'è stavo, me sono fatto pure la moglie. Però innocente invece a me, vostro onore, mi hanno beccato mentre mi stavo rubando le limosine in chiesa, a me che sono più innocente di tutti. C'avevano le fasce, c'avevano brutti, sporchi e cattivi. Sono la notte, spengono le luci, vengono in quarto, entrano in cella, mi bloccano e mi danno tante di quelle botte. Forza di Sono arrivati una banda di mastini in divisa e mi hanno gonfiato le botte pure loro. Ma io non ho detto niente. Mai rivelare i torti subiti quando stai dentro una fogna come quella, se non ti basta manco più l'esercito della salvezza. Però vedi una cosa. Va la prima volta. Ho riflettuto e ho pensato che forse era il caso che cambiavo vita. Oh, ero ancora giovane, magari uscito da là, me potevo, che ne so, me potevo sposare. Con Cecilia magari. A me mi è mancato l'affetto, eh. Oh, ma se no sai a stora dove stavo? Guarda che minimo stavo là. Come se sta là? Bene, vedi. Io quando esco mi sposa Cecilia. Anzi, lo sapete che vi dico? Mentre che sto qua dentro, prima che esco, io a Cecilia me la sogno! D'Artagnan, a Bombarolo, sai che famo? Visto che si è comportato bene, che ha detto niente. La prossima gliela dedichiamo, eh? Sogno la mia bella Milo. Certo, una cosa buona l'ho fatta in carcere, eh? No? No, no, la terza media, oh. Ho preso la terza media. Oh, prima di entrare in carcere, l'unici pezzi di carta che mi tenevo in mano erano, che ne so, la carta igienica oppure i soldi. E invece no, mo me l'ha presa a leggere, perché quando che stai dentro una gabbia il tempo non ti passa mai, e quindi io leggevo, me leggevo di tutto, me leggevo pure gli articoli che arrivavano censurati, me leggevo pure il catalogo da Avestro. Me leggevo pure tutti i libri ingialliti che ci avete dentro qua, la biblioteca purciara. Fra, lo devi sapere, c'avete una biblioteca purciara, c'avete solo tutti i romanzi dalla selezione del Gigi Riggest, me li sono letti tutti. Me leggevo, non mi interessava se parlava dei de suicidi, d'amore, dei tormenti. Me leggevo, senti, eh. Dite. No, c'è scritto. Si può stare quieti sapendo che c'è qualcuno che ti dipinge agli occhi degli altri secondo l'opinione che lui si è fatta di te. Vabbè, ogni tanto non ci capivo una sega, però mi piaceva leggere queste cose. Cantare sereno e gaio, libero e indipendente. Già con me, fra, libero e indipendente. Ho pure beccato una volta un libro de mitologia, c'è stava una dea, com'è che si chiamava? Artemide, tutta nera, piena di sise, c'aveva tette dappertutto, certi capezzoli. A me qua la cultura mi piaceva. C'era da un po' di tempo a sta parte, pure i compagni miei di cella mi cominciavano a chiamare l'avvocato. Avvocato! Che c'è? Ma difendi te? E perché? Perché l'avvocato mio l'ho ucciso. Avvocato! Che c'è? Leggimi un po' sta sentenza! Che dice? Che dice? Che pure in appello ti hanno dato 20 anni! E poi, grazie alla cultura, io mi sentivo che non ero morto. Che potevo, una volta uscito, potevo ricominciare. No, ricominciare riga dritto, ma che hai capito? E poi si dice che Artemide, qua la dea che ti dicevo prima, era la dea che proteggeva quando che i giovani stanno a diventare adulti. Era la dea mia, mi proteggeva, a me piaceva. E a ditta la tutta, secondo me, un po' pure io gli piacevo. Mo, lascia fare. Insomma, dopo un po' di tempo che me l'ho preso la terza media, arriva un secondino e mi fa: dice il direttore, se vuoi diventà bibliotecario di Regina Celi. Ah, che soddisfazione! Natalino del Tersorcio, er bibliotecario di Regina Celi. Ammazza, com'ero felice! Ero felice i primi 2 giorni. Poi quando ho capito che in carcere non legge nessuno e che stavo sempre solo dentro a quella stanza enorme, c'era più compagnia quando stavo in isolamento. Anzi, però no, devo dire, a dire la verità, uno c'era. Uno che veniva tutti i giorni, alla stessa ora, mi chiedeva sempre i stessi 2 libri. Erano la Bibbia e il Vangelo. Si metteva alla stessa ora, nello stesso posto, sotto una finestra che c'era un raggio di sole che illuminava il libro e lui leggeva tranquillo. Lo chiamavamo Cicaboom, per via del fatto che gli piaceva ballare, no? Oh, quello aveva strangolato 11 donne. Dal giugno a luglio 1979 i giornalisti l'avevano intitolato Er killer da mietitura. C'aveva una tecnica tutta sua. Quando che vedeva la vittima, ne abusava. Dopodiché la strangolava e però poi a lui gli piaceva piasse in souvenir, un dito, un capezzolo, un pezzo di pube. E io stavo tutto il giorno con lui dentro, da solo, capito? E c'ha pure, come a dire... Oh, capace che ti distrai un attimo, quello ti fa affettina, ti mette dentro al frigorifero, manco te ne accorgi, il giorno dopo sei al portachiavi suo. E poi stavamo sempre zitti, boh. Un giorno mi fa... Bo Derek! Cazzo hai detto? Bo Derek, ta ricordi? Vieni qua, e calà sono morto. C'aveva un brivido su tutto il corpo, faceva su e giù che pareva una palletta del flipper. Avvicinati. Oh, insomma, a un certo punto mi avvicino, c'è un bigliettino di carta piegato piccolo piccolo, lo srotola e dentro c'è stava... Poderek! Qua la foto che lei sta mezza nuda sulla spiaggia con la sabbia, il costume tutta fracica così che le gambe aperte. E mi fa, questa è la copertina di Playboy di marzo. Io l'ho trattenuta da quando che mi hanno arrestato. Sono arrivate le guardie, ho fatto a tempo solamente a piegarla che la stavo contemplando. L'ho piegata piccola piccola e me la sono infilata in bocca. E sono stato zitto, zitto fino a che non mi hanno riportato dentro una gabbia. Allora l'ho ritirata fuori e ho continuato a contemplarla. A me mi piacciono le donne, però mi piacciono i dettagli. Mi piace, che ne so, un arco plantare, un polpaccio. Mi piace laddove l'orecchio si unisce alla nuca. Pure a me non mi piace. Insomma, a forza di chiacchierare con... o strano, il mostro, l'animale. Ero diventato amico pure io suo, ero diventato suo amico e quindi ero rispettato dentro la galera. Oh, ma io mi ci trovavo bene con Jack lo squartatore. Ma sì, perché con lui si facevano discorsi diversi. Oh, una volta è venuto a me e mi fa: ma tu ti senti più Caino o Abele? Allora io ci ho pensato tutta la notte, eh. Se no, con l'altro facevi i soliti discorsi, e donne, i motori a briscola e il biardino. Un giorno... mentre stavo a leggere, viene lui, mi consegna i soliti 2 libri, la Bibbia e il Vangelo. Mi stringe la mano forte e mi dice: tu, per me, sei come un giglio tra i cardi. Sei come un melo tra gli alberi del bosco. Sei il mio diletto tra i giovani. Io sono rimasto turbato. Non tanto perché c'avevo così vicino che gli potevo sentire l'alito. ma perché mi aveva fatto emozionare. Pure io provavo le stesse cose. No, no, alla figa ci pensavo sempre. Il mio era un amore maschile, era come Achille e Patroclo. Quella notte sono andato in cella, mi sono messo vestito dentro la branda, volevo solo dormire, solo dormire. Però non ci riuscivo perché continuavo a pensare, ma se non so uomo, ma se non so uomo, allora con uno sforzo di fantasia mi riporto alla mente tutte le fighe che m'ero scopato fino a quel giorno e me le metto davanti agli occhi, una accanto all'altra. Una accanto all'altra. Una. E alla fine c'è stava sempre Cicabum. La verità è che c'avevo una fame. C'avevo una fame d'amore che mi sarei mangiato qualsiasi cosa. Meno male che a me a Cicabum non ci hanno messo dentro la stessa cella mai. Se no sai che te combinavamo. Certo che per le donne è diverso. Le donne nei momenti di sconforto si possono abbracciare, si accarezzano i capelli, si stringono la mano. Prova che c'è un momento di sconforto dentro un carcere maschile accarezzati i capelli. È disdicevole. Oh, insomma, così però sono passati quei 6 anni tra le letture, i libri, le chiacchiere con Cicabum e le emozioni. E poi finalmente è arrivato quel giorno, il grande giorno, il giorno che i cancelli te si chiudono, però stavolta no davanti, te si chiudono dietro. È il giorno che i secondini te fanno, a Natale tanto se vediamo presto. Sì, certo, intanto io vado a trovare tua sorella. È il giorno che l'amici tua ti danno le lettere da dare ai parenti, così non passano per la censura. Quel giorno che te senti che stai dentro un film e tu sei il protagonista. L'ultimo cancello. È Colombo! È Colombo! Ha fatto rotolare lo sgabello! Cicabum si era impiccato. Oh! Vi è uno vicino a me e mi dà un pezzetto di carta piegato piccolo. La tua amicizia per me è preziosa più che amore di donna. Samuele capitolo 2, versetto 1, 2, 3, 4, 5. E insomma, dopo 6 anni volevo... dove stanno gli altri? E che ne so? Ah, Morisano, vieni qua! Oh, Morisano! Ma dove stavi? Sì, accesso che ha la chitarra. Insomma, dopo 6 anni io volevo vedere se era ancora buono d'andare con una donna. Ma che vuoi dire? Ma che voglio di niente, che voglio di niente, no? E allora quella volta era cominciata a piovere, stava a Piazza dei 500, mi sono riparato dentro una cabina del telefono, a un certo punto mi si affaccia una signora, c'ha tipo 50 anni, mi guarda che c'aveva la pelle tutta scavata e me sorride, ci avrà avuto in bocca tipo i resti di una frittata di spinaci, dico c'hai la muffa in bocca, ma che te ridi? A un certo punto ho pensato, no, ce devo riuscire. E poi mica me la devo sposare, oh. Mica l'avrei pure pagata, mi stava pure un po' a piacere ste pelli, ste carni secche. Che gusti, oh. Però a un certo punto c'ha una lira, allora non la potevo pagare, ho fatto... Oh. E io, allora, mi faccio caruccio! E la invito ad entrare, please welcome. Lei mi guarda, io la guardo, se guardiamo. E intorno non c'era nessuno. Allora, piano piano mi avvicino. Aspetta, aspetta, aspetta. Piano piano, dato sì che stavo dentro una cabina di 1 metro per 1 metro, un passo, e io stavo addosso. Allora lei stringe la cornetta. Io la spingo in un angolo, lei lascia andare la cornetta, io gli alzo la gonna, lei mi abbassa i pantaloni, me s'affinchia con le gambe intorno ai fianchi e ruggisce. Eccolo! Finalmente un po' d'amore! Yeah! So homo! Oh. Ah, Franco, chiarimo, se basta, mo mi sono rotto le palle. Mi stai a chiamare qua ogni giorno a parlare, però non devo fare spia, non devo fare spione. Il caso è chiuso dalla rapina, però mi chiedi. Non mi devi arrestare, però mi chiami ogni giorno. A me c'è qualcosa che non mi guarda, guarda che se mi devi arrestare, mo devi dire. Fammi una cosa, no, no, fammo, ma ascolti te, fammi una cosa, io qui non ci torno più, hai capito? Franco, io sono arrivato qua tutto incazzato, invece te? Un'occupazione, un lavoro c'hai, avrà qualsiasi cosa, pure quello. Avrà, ma lo immagini? Natalino detto il sorcio, Natale russo, la mattina, la valigetta, alle 9 di mattina che va a lavorare. Ma bravo, sai che ti dico? Che io mo che c'ho un lavoro vero, vado a circa Cecilia e me la sposo. Ma sì, me la sposo. Ci faccio 10 figli, Franco. 10 figli è il primo che ruba, te giuro che l'ammazzo con le mani mie. Ma bravo, se fa per di, sono cose che se dico. Avrà. Grazie. Ma che se vede che sto felice? Oh, stamattina stavo a passeggiare, mi salutavano tutti. C'era un pullman dei giapponesi, pure loro mi salutavano, mi facevano le foto. Oh, beccato a Mariuccio, vuoi ricordare a Mariuccio? Mariuccio l'infermiere mi ha detto che ha scoperto un dostar Cecilia. Ma io domani vado a pizzicarla. Vado a pizzicare e me la sposo. Cecilia, anzi, dai ste carte, va. Dai ste carte. Come sempre il piatto piano. Ma dai, che famo solo quello che mi metto. Oh, ma m'entra mai una carta? Già l'ho visto. Oh, vedi qui. Oh, ma lo sai che vi dico? Ma perché devi aspettare domani? Oh, io a Cecilia me la vado a cercare adesso. Asorcio, questo è per infami come te. Eh no, è così, è una presa per culo, però. Eccola, vita mia. Certo che si faceva il pugile come voleva mio padre, chissà a mondo stavo. Quanti sono stati i minuti che sono stato veramente felice in vita mia? 2 minuti quando ho beccato il barattolo al primo colpo. Una mezz'oretta quando ho conosciuto Cecilia. E poi quando Misar mi ha messo la mano in testa e mi ha fatto una carezza. Ma perché non gli è in mente Misar? Vede, Natalino, la passione è la cosa più importante che ci abbiamo. Non c'è una vergine che si rinnova sotto lo stesso velo. Anzi, una c'è. E tu porti i suoi occhi. E tu porti i suoi occhi, ecco che mi ha detto. No. Ma va a vedere, mo, che io sono il figlio di... Certo che sei il figlio di Misar, ma chissà dove stavo. Sicuro che stavo dentro a qualche discarica. Che stavamo a cantare, a ascoltare storie che ci raccontava Misar. Con la chitarra scordata di James, il mandolino di Catrizza e la fisarmonica del Setraia. E io che suonavo la tromba. E battevamo le mani, e a forza di cantare, di suonare, di battere le mani, ci sembrava un paradiso pure qua a Borcata de Merda. Calibro 9, hai tirato bene, Pietro. Dritto al cuore. Mi sa che non ci sta niente da fare. Oh, qui. Mi sa che se dobbiamo salutare. Che? Sì, sì, sta là fuori. Ta poi piaga, Masaki, sì. Allora, arrivederci.